ti giuro, fratello, era una cazzata proprio, una cosa partita in 5 minuti, capito? Non so neanche io come, forse che ero io, non lo so, è stata una cosa proprio di 5 minuti. Quando ho lasciato io, mi hanno detto che ho arrivato se potessi, perché c'è sempre un bar, mi voglio di faccia due che cosa, non ricordo. Si è giocato il bauino, un gatto, la galleria, non ricordo neanche cosa che è successo. E quindi ero fatto 113, poi non ce l'ho più, capito? Eravamo già fuori quando è successa la rissa. Sì, ma arrivato al 113 ha chiesto come ti chiamavi tu, come si chiamava lui, e sicuramente ha preso l'opera, capito? A te non ti hanno mai chiamato, ma te non se ne hanno segnalato. Quando intervengono poi chiedono, vanno dal barista, dico chi era che c'è del fatto, eccetera, eccetera, okay. Dal padrone o dalla gente che c'era, capito, si informano. No, vabbè, non sapevo niente, tanto quando mi hanno tolto questo fascicolo, dice lì, tal giorno, io, non mi ricordo, cosa è successo? Conosceva il centro voce, e quindi hanno... Esatto, la mia dichiarazione ha in conformità con quello che è successo nel 2008, risultato tutto positivo, non è che ho dichiarato il falso, e lì mi hanno lasciato in mezzo, no, vediamo domani, sono le 11 e mezzo per essere in procura, l'avvocato, anche che sono pieno di coglioni. Ma te non ti hanno mai convocato per questa denuncia? Vabbè, Claudio. Mai, ce la voglio dire. Mai. Se non l'hanno notificata via Pascoli, io già qua, non lo so. Vado più lungo. Vado più lungo. Ciao. Poverie, chiami tutto. Chiaramente di servizio la battuta di via Pascoli. Chi sa, lì c'è la macchina di via Pascoli. Chi cazzo, fatelo mio, quando? Ah, 2008. Lo stavo lì, quando ti avrà lasciato un buon lasciando. Se non lo ricordo, qua. Hai una palla, veramente. Abbiamo messo tutti i sacchi. Non lo ricordi, cazzo. Lo stavo lì e... mi ha attaccato lo fluido. Quando l'ambasciatore Alessandro dice un piatto sfungone, dice un guasso, un amico buio. Profilo di Tore chi? Hai visto io. Sì, se non lo ricordo qua. Vabbè, comunque, beh. È morto il fratello di Tore, saluto. È il figlio? C'è il figlio di va. Giovanni, fratello di Brescia. Ma è coinvolto nel 2008 per vissere lesioni. Sì, lo so, io non ero con lui. Ho fatto un attimo con quella di Daniele, la 500 Abba, poi si è preso quella proprio, cioè tutto. Si è fatta un pacco di soldi con la macchina. Però se l'ha voluta, neanche già 5 giorni, 6 giorni con la macchina. La vicinanza, però se sa capire cosa è morto, bro. Non me lo diranno. Cosa sotto rossa c'è? Cosa sotto grossa c'è? Io mi sono uscito a... mi hanno convocato a... a un giorno e mezzo, mi sono riuscito a venire 7 in giro, quindi... non lo so, la macchina è sotto sequenza davanti a volta. Sequenziata nera. Hanno periziato, hanno... hanno fatto tutti i rilievi, hanno trovato anche roba dentro. Capito? Successo... non si sa. Ero con Tore... la sera. Non so, non so, un'ottima birretta e poi si verrà. Dove stai andando adesso? Adesso a che bar stai andando? Sono giù là, per appuntamento con Manuela, con la mia amica. Oppure dobbiamo spostare, devo andare via, che ci va via il giorno, via Rosello al circolo. Ah, deve suonare? Ah? Ecco. Tu sei tranquillo, lascia. Ti devi ricordare quello che hai fatto, fatti di memoria di quello che hai fatto, sei con gente, sei con gente o sei solo, ricordati un po' tutto quanto, perché poi te lo devi, dire, guarda, io a quell'ora lì ero lì, in quel punto lì, e c'ho testimoni, per dire. Ma se c'era meno 20-30 persone, c'erano 20-30 persone che sono fatto fuori oggi, vuol dire facendo tutto. Ma se mi sto ricordando, anche la mattina, anche perché non ti ricordo, c'è gli altri come erano, non mi ricordo niente io, ma già mi ricordo io, mi ha detto. Comunque non ci sono problemi, perché qualsiasi cosa succede, tanto chiamare una chiamata, adesso vediamo se siamo finiti domani. Capito? Vediamo un po', non mi ricordo un cazzo, non ricordo gli altri, butto un po' già Alessandro. Hai sonnito di cosa? Che giorno era? Cioè che giorno era quando vi ho preso nel mio posto? Che giorno era? Di sera? Sì. Di sera? No. Di sera tardi? No, vi si ricorda di sera tardi, quindi. No, mi sono tre mesi. Ecco perché, stavo ritirando la ferie, questo particolare non lo ricordo. Stavo ritirando la ferie. Ciao Gianni, ci vediamo dopo. Voglio ringraziare i miei soccorsi. organizzare le cose. Se non ho capito niente, comunque ho capito Claudio. Ma Gianni non ti ho capito, dimmi Gianni. Ha detto che tante volte bisogna fare indifferenti, far finta di non accorgersi certe cose, se no poi è peggio, capito? Poi verrà il giorno che magari si chiarirà. Spiega una cosa, io cosa ne so di quello che è successo con loro? A me era partito, cioè fate un break normale. Ha salto tu, mi piglia Antonello, hai capito? Mi sembrava una cosa, la verità non va bene, poi come la penso io, poi non lo so, è una cosa che io entro, saluto tutti, beh già, a te un te saluto. Ti dà fastidio perché ti dà fastidio, il discorso è quello. Io cosa so cosa è successo prima, anche perché sto lavorando e non è che me ne fotte niente nel baracchino. Non entro tutti i giorni, già l'hai visto. Grazie a Dio sto bene adesso, quindi non mi posso lamentare, però di certe cose non le so, non è che voglio mettere il fuoco, capito? Io non so come stanno le cose, non sono io la Nuova Sardegna che so tutto, oppure l'Unione Sarda, cosa ti posso dire, altre cose, che è successo quello con l'altro. Se mi vuoi fare una cortesia, se no continuo. Allora sai che ti ricatto? Ti appendi in culo e passi buone feste e faccio quelle che anch'io. La verità si dica, perché fare così non me ne fate proprio niente. Cioè parlare con in queste condizioni mi sembra di essere nel condominio e perché non saluti uno non vuoi salutare anch'io, questa cosa è quella. Quindi preferisco, me ne rimango da parte e parlate voi due e basta, il discorso è quello lì. È come la penso io, poi non lo so, quando vi mettete d'accordo e fate la pace allora parliamo tutti quanti assieme, così non mettiamo casino. Ascolta, allora se come li metti su, non ho capito cosa c'entri tu, io solamente una volta che hai verificato, lui parliamo, cosa fai a continuare il discorso? Appunto per quello non continuo il discorso, dato che le cose stanno così me le mando con Rick, sono tranquillo, qual è il problema? Parlate tranquillamente, io non devo stare bisticci degli altri, non ho capito perché, scusa, Quindi a un certo punto mi sono con Rick, sono tranquillo, parlate, fate quello che volete, il discorso è chiuso quanto. A me di queste non mi voglio per niente. Non c'entro per niente, quindi. A un certo punto mi metto con Rick, sono bello tranquillo, mi piglio la lattina, me la bevo, mi piglio una pizza, me la mangio, la faccio degli altri e basta, non devo fare la differenza degli altri, il discorso è così. Continua pure a parlare tranquillo. E boh, a me non me ne fotte nulla, ma di queste, cioè le bisticci che sono andate al baracchino non vedo, non voglio neanche entrare, perché sto bene così, grazie a Dio, dormo tranquillo, mangio tranquillo e basta. Ma se non te ne fosse fregato niente, non avresti tirato ancora la faccia, capito? Invece a quanto sembra non è così. Sembra che mi volete in me tanto, la verità, parlando così. Comunque a un certo punto ascolto, non me ne fotte niente, tanto. Parla tranquillo, fotte di me, no, non me ne fotte niente. Fatti però non ci sono, parla pure tranquillo. Ma guarda, sei una parte importante della mia vita, quindi mi tiene male, davvero, farti interessare. Guarda, la verità, non sei la parte più bella della mia vita, grazie a Dio, ne conosco di ragazze, meglio le ragazze che i maschi, a fotte di me. Parla tranquillo, fregatene. Vai sempre dritto, tanto cosa vuoi ti dica io? Io invece non ci voglio neanche entrare, ognuno c'è i contatti uno con l'altro, quindi non me ne fate niente. Contanto così io nel posto di lavoro non sento niente, non vedo niente, non faccio niente. Il discorso è tranquillo. Quindi mi metto da parte, me ne vado nel mio circolino, in cucina adesso, mi piglio la mattina, me la bevo tranquillo. E non penso a nessuno. Se prendi Gianni. Se non l'ha fatto con malizia, niente, dai, non è come se non avessimo detto. Faccio bene a tutti di qui. Malizia, già, hai fatto bene. Appaga. No, ma... cosa ti volevo dire, Antonio? Qualche giorno dobbiamo andare a pescare, perché personaggio di pagano, ciò le canne ferme. Qualche giorno ci mettiamo l'acqua e andiamo. Lo sai che le seppie anche adesso ci sono. Invece calamari no? Le seppie però ci dovrebbero essere adesso al freddo. La notte. No, c'è un po' di umidità, però da domani dovrebbe riprendere bene il tempo. E quindi se c'è almeno 3 giorni di caldo, bello intenso. E vabbè, si può sempre provare, non è che... Tanto a seppia non ci sta andando nessuno, sono tutti quanti a pescare le spigole. Papà di Roger, assolutamente sì, lei vi fa la partita. Occhio a vita. Esatto, Italia-Croazia, però abbiamo giocato davvero bene e come al solito ci siamo rilassati, quindi hanno pareggiato un po' come è successo con la Spagna. 1-1? Però già siamo a rischio, Uno l'ha giocato sulla vincita dell'Italia, addirittura 3-3. Ci ha messo tutti i dinamici, non so se 300 io. Cappa. Mamma mia. Sempre delle pesante. Come stai a proposito? Qua c'è il karaoke. C'è il karaoke? Ma non era che si sta allenata. Puoi sentire? Sta cantando. Ogni tanto. Abbiamo messo anche il bigliettino al condominio, che non può cantare, che non si può cantare in un condominio, che qua che là, non è il batte le scatole, sta sempre lottando, ha detto che ci sono gli orari. Cosa su YouTube c'è? Di Manuela? No, non penso, no, non ne mettono, no, non è buoni, aspetta. Ah, c'è anche Liliana che sta cantando, penso mia voce. Perché guarda che come mezzo di comunicazione YouTube è la cosa migliore. Ma diciamo che lì si sta dando da fare, anche sta andando fuori e cosa cantare. Adesso ultimamente è andata a Milano, ha fatto un provino, adesso dovrò andare a Roma. Vediamo, va, qualche cosa esca fuori. Gli hanno fatto delle proposte come quando era a Roma, gli hanno fatto delle proposte come comparsa in un film. Gli hanno telefonato anche a casa, gli ha detto se è una cosa che ne vale la pena vengo, se no solo per fare i provini e cosa non mi interessa. Però dice prima deve fare i provini, e allora addio. L'agenzia ti manda, si chiamano casting, lo devi fare per forza. Ecco, ma qua sono lì da buttare, non ce l'hai capito, non puoi stare sempre viaggiando. Guarda che la sta contentando tutto e per tutto, è andato già 2 volte a Roma, 1 volta a Milano, adesso deve ripartire a Roma. Cioè, in pochi mesi si è fatto un po' di viaggetti. Lo so, però mettiti anche dall'altra parte, che è normale, perché se una persona non la conosci, credi quantomeno avere... Lei può fare così al limite, può registrare uno dei casting che ha fatto e ogni volta spedire la cassetta. Infatti. Qua. Cioè, le piace molto, capito? E quello è... Mi piace fare queste cose. Io, cioè, ma domani vieni. Eia. Quanti giorni sei stato? 3? Non sono ancora... sono tutto busurato, Non ti credere che sia messo bene. Non sempre con questa pancia che mi si gonfia, mal di pancia. Grazie a Dio la febbre mi è passata. Avevo 37,2 stamattina, adesso grazie a Dio non ne ho. Però questa pancia gonfia me la sento sempre. È normale, aspetta un attimino che c'è una bassa un attimo. Io. Però, Dani. No, mi è arrivata una telefonata, siccome sono tanto andare con la io lo dico, lo voglio sapere, sa perché lo stai facendo. Fare quel seriamente per Gigi che mi ha chiesto, siccome dovevano andare a Bergamo Nero, e allora le sto organizzando per Gigi. E dopodiché ne devo fare per un cantiere edile e poi per una fetta del MOS. Ma le stai facendo quelle di Gigi? Una Fiat, vedrai che adesso spero non sia in ascolto perché è una sorpresa, perché gli devo fare, cioè gli sto facendo, sono polo, non magliette normali, e hanno la bandiera italiana da una parte, quella della Sardegna dall'altra sulla manica, e dopodiché hanno dietro il nominativo in grande, rosso, a sfondo contornato di nero, dietro sulla schiena, sto dicendo. E poi davanti sulla sinistra, dove c'è il cuore, dove dovrebbe esserci il distintivo, nome e nominativo, più il logo della manifestazione. No, perché ti stai divorando l'occhiale, se ne facevi una in più per me. Come nero? No, non ce lo scrivi per Romanello, scrivi solo il nominativo, l'altra cosa va bene, ma ci scrivi nominativo e niente, le bandiere e cose, poi a meno che le facciamo per fare manifestazioni tutti uguali. Quelle dell'associazione le sto facendo, se vuoi te ne faccio una con quello dell'associazione. E ma se l'associazione ancora non è sorta, non è ancora sorta. Chi l'ha detto che non è sorta? L'associazione è regolarmente registrata esattamente 2 anni fa o cos'è? 1 anno fa. Pagava. Fammela, non c'è problema. Mi dice quanto deve volare? No, 50 euro, niente di più. Ma la fare più? Senza. Senza, dai. Com'è che diceva quello? Cara, cara, cara, trinchetto. Niente. Va bene, come vuoi. Anche perché se ti fidi le ho pagate, mi sono costate 10,50 l'una, no, le devi vedere, sono davvero molto belle. Comunque ti ripeto, tu adesso vediamo un attimino, che misura hai tu, una XL o una XXL? Una XL normale. XL normale, ti sta sicuro? Io c'ho XL, no, XXL mi sta all'olardo. A meno che siano misure di cavolo o di quelle cinesi. Ma negativo, sono italiane come la gente. Gappa. Ah, per l'associazione come le stai facendo invece? Sono le stesse magliette, polo, bianche, che hanno i bordini sulle maniche, sul colletto e sul fondo della maglietta. E in breve hanno il logo dell'associazione a sinistra e sul cuore, dopodiché hanno bandiera italiana sulla sinistra e bandiera della Sardegna sulla destra, dietro il nominativo. Io direi dietro di metterci gruppo CB, associazione, eccetera, eccetera. Il nominativo magari davanti sul lato, che nominativo interessa se a un certo punto, però più che altro ci servirebbero dei giubbottini tipo quelli che si mettono per le macchine quando c'hai qualche problema, per farti vedere, e quei giubbottini lì fosforescenti, perché se fai tipi di servizio tipo quello, la discesa del polottore, cosa fai? Facendo un casino, non capisco più, mi sono dovuto mettere le cuffie perché si è portata anche le casse grosse, il mixer tutto grande, una cosa allucinante, ma a tutti i costi vuole fare qualcosa. Allora ce la farà. Scusami un attimino, che sto riaccendendo la stampante. Certo, è bene dalla parata. Non molto, non pesca. Non pesca molto. Cioè, è abbastanza limitato come microfono, non è ambientale. È perché bisogna metterlo molto vicino, ma non rendo conto. Metto la storia, si sente bene. Aspetta un attimo, arrivo subito. Brody. segnale, sempre quasi in movimento. filtra un po' d'acqua, ti mette in positivo o negativo e ti fa salire, che si muova la molla di corticircuitatura per crearti lo stesso problema. Non solo, anche all'interno la devi manutenzionare, in breve è un'antenna che vale o rende quello che costa, quindi costa mi sembra 39 euro e fa anche troppo, guarda, però da poco ti inizia a creare problemi. Yeah. gli piace, la gente gli piace la Spagna, gli piace la Cina e tu. Gaffa. Gaffa gaffa. Sì, stavo... Stavo aspettando. Ah, tutti morti, ciao, tutti morti. Morti, dei morti. Oh, ma tu, fammi la cortesia, mi dai un controllo, senti la radio per cortesia, tu. Scappa, ma è un passaggio. Vedi un po', la radio mi interessa, no, Santiago, la radio, va bene, com'è la radio? 220 e Radio 5. Come ti andi buio? Santiago 7-8, dai, buona radio, è buonissima tu, perfetto. Perché ho fatto utilizzando 4 watt, raffaglietto 3 watt, marino. Buona, buona, buona tu, buona. Buona per la truppa, non c'è nessuno tu, non ha sentito nessuno. Svaniti nel nulla, tutti svaniti. Sei andato in adesso? Perché? No, penso, e te balla. No, niente, volevo salutare, sono sempre in ascolto e continuate. Beh, carissimo. E non ho tanti commenti, dunque sono un pochettino da parte. Tu hai sempre acceso l'apparato, ti preoccupare. C'è sempre la mia compagnia, continuate. Non hai tanti commenti. Salutami la tua 50, la tua bambina. Ti ringrazio, ricevuto. E da bala. E Luca, non da poco ne fai dare sinceramente. E aumenta, vai. Tu mi nascondi qualcosa. No, tutto a posto. Comunque saluto anche a... Ah, come si chiama? Bombolo, buonasera. Continuate tranquilli, dai, vi ascolto. Cosa c'è? Cosa c'è? Ehi, dimmi, Luci. Lucino. Dimmi, che sto mangiando un capo. Scusa, dimmi, perché... Cazzo, se mi scambi il padroncino, chiudo il baracchino e se lo butto alla finestra, Hai ragione, dai. Oppa. Io ho messo il satellite, mi ho messo la parabola. Sono un po' di canali interessanti, Sì, è bene, normale. Satellite prende tanti canali, sì. Beh, Anton, rispondi a zio Valchetto. Ma, ve n'è uno che non so se lo conosci, si chiama ISI, che unia tanto un vocale. Venga tu, si chiama... Tranquillo. No. Ascolta, dov'è? No, la paia, se non scende, cazzo, è un minorito. radio è sempre Super 5. Salutami la tua famiglia, guarda, con cuore. Via, altrettanto, grazie di un qualche. Sì, va bene, va. Sempre in Wilkes, eh? E sempre a Ossiso. E stanno rovinando la miseria un caffè, bene. E anche due, e perché no, volentieri. Scherzo, scherzo, però questo non si può salire a prendere il caffè quest'ora. E vabbè, non c'era problema, tranquillamente. Ah, già lo so, già lo so. Continua a dire qualche vi ascolto, dai, non vi disturbo. Io mi disturbo, a me fa piacere sentire le persone. Già lo sai. Sto aspettando quella commissione ancora, tanto. Di quale commissione? Della carpetta? Già lo sai, è alla Sisa. E sempre a casa, dimmi tu. Vabbè, domani sono senza macchina, che non funge. E questa settimana tutto va bene, ce l'ho. E mi chiami e scendo a portartela. C'è problema, scherzo, lo so che e purtroppo cerca di capire a me. E il discorso è grigio. E purtroppo io capisco a te, tu capisci a me, e via dicendo. No, ma te la dono, qual è il problema? La dono? No, d'argento, se me la doni, no. Ebbene, te la sto regalando, ti commenti di nare, non c'è problema. Tu mi chiami, quando ci sei te la sto portando senza nessun impegno, te l'ho detto. Spostati di giocare, Matteo. 11-12. Ok. Ma che la fa? Ma quali c'hai il paracchino? Oh, c'è però 87, oh. Ma c'è sto? Però te. Due ore e mezzo di viaggio, non parlo tra i bar, non sai che corri, non mi piace molto. comunque ci vuole un'ora andando più tranquillamente a velocità costante. chiamando adesso. Se conti sino a 20 te lo dico subito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 20. Vedi un po'? Aspetta che... Scusa, non te lo rispondo al telefono. Vai, rispondi, rispondi. Te lo prendo subito. Vai, vai. Ok. Che si è spostato mi sembra un po' molto molto strano comunque. Poi si dovrà fare una prova con altri due apparecchi che c'ho. Con questo l'ho allineato da poco, però è un 140. Gli altri sono un 950 e un 850. E quindi se si vuole controllare con quelli adesso sposta e poi ti controllo. Là sì che sono questo qua, devo controllare, non lo so. Ok, un attimo, dammi 5 secondi che rispondo al telefono e sono qua per questo. Fai, fai. Io adesso qui la controllo, io ho quel cavo di radio l'altra che è molto selettiva, nel senso che se io invece questa riesco ad aprire col filtro, quindi riesco a, anche se uno è leggermente, non ho nessun problema. No, io sono una radio normalissima, non vedo motivo perché debba essere così spostato, come dici, senza offesa, se intendiamoci. Adesso io sto attenuo, adesso ti attenuo. E ti devo attenuare pure un po' a te. Perché? È perché sì, sei un po' vicino a me. Diciamo che siamo a un filo di schiocco l'uno all'altro, è ovvio che tu mi senti, diciamo, un filo di schiocco. Allora, ti confermo che sei spostato. Lo confermo, questa la Bell 140 ero sicuro perché l'ho riallineato da poco io personalmente. Guarda, qui ha stato il generatore e gli do la frequenza e vediamo se c'è entrata in ricezione, se non mi sbaglio. Non ho nemmeno provato l'850, sto provando un Yaris FT950, quindi anche qui risulta lo stesso identico. Per, qui non mi dai problemi anche a 75, però a 76 ti aumenta infatti di segnale. Ma potrebbe essere, aspetta un attimo. Niente di strano che sia spostato, io aspetta per appena. Vedi un po', allineato sono. Adesso mi sembra che è aumentato il segnale 75. Io non ho qua analizzatore di spettro per poterti dare perfettamente come se, però io da un po' dalla modulazione a ti sposti leggermente, vedi che il segnale aumenta di poco di molto e quindi più o meno ti rendi conto da quello, capito? Poi l'altra che è più stretta come i filtri, ovviamente se uno è un po' spostato lo vedo subito, questo invece la metto a 3000 e quindi non ho nessun problema, anche se uno è un po' spostato nemmeno me ne rendo conto, però se poi giri col WFO già ti rendi conto, capito? Vieni avanti. Sì, quello è vero Fabri, però vedi un po', io sono centrato al centro, guarda, adesso io non sto toccando niente, vedi un po', ora. No. Comunque se io non riesco ad apprezzarlo molto, capito, perché più con l'altra meglio, però anche qui poco fa mi si è aumentato. L'altra, aspetta, non mi ricordo come si faceva a stringere il filtro in AM, è quello che non mi ricordo, capito? Ehi, dimmi a tu, io, avanti. energia a Torre, che sono della pizzeria di Ampattoli. Sì? Non migliore il mondo. Io no, non lo conoscevo, l'ho sentito stazione della radio ma non lo conoscevo. Ma è una pizzeria di chi ha fatto, ai ai ai, adesso mi dispiace, sono fresca, eravamo tutti quanti amici perché ci conosciamo da ragazzi, dai, ci conosciamo, ho fatto l'infanzia. Dimmi, è attenuato, quindi lo sentivo basso a bombolino, capito? Tutto attenuato, dimmi. Comunque c'è molto guerrere. No, ma di lì non sto uscendo con, sto uscendo con un'altra antenna adesso. Oh, la tua stazione c'è, ne ha problema nelle discussioni di dire che la tua stazione stia uscendo male, anzi, troppo corretta, ma la grande. No, sto uscendo con la multibanda, quindi un'antenna autocostruita alta, quasi 13 metri, quindi te la uso per l'ascolto questa, capito? Ciao, ma un interrogativo, no, ma più che essere un interrogativo, la tua zona di modulazione, va bene, se no un disturbo. Siamo in vista, via più o meno, via Montegrappa, più o meno. Tutto là, ok. Aspetta che ricambio radio. Ciao. Dove ti arriva a Fontana? Come tu? Come ti arriva a Fontana, Fabrizio? No, Fabrizio sta facendo delle promette di antenna. Adesso non vai. Ciao. Ti sei già centrato un altro un po', sei meno fuori, ma poco, se giri poco, sei ancora meglio. Qual è il caso di fine tuning, fine corsa, capito? Cioè io ho un Galaxy che da poco l'ho riallineato, no? Ugualmente ci sono dovuto andare, l'ho dovuto mettere al centro, e poi dentro ci sono dei, una volta che l'ho messo in frequenza, poi all'interno ci sono delle bombolette di trimmer da toccare, da regolare col frequentimetro, l'altro dietro, e glielo centri, capito? Purtroppo non hanno lo scatto, capito? Cioè, cosa non è che ti fa che sia come una radio fa stack, e lì deve rimanere, invece quello ricatto continua a girare, quindi non è preciso. Ok, allora non è il mio problema, sarà il tuo. No, io questo ce l'ho così. Dici, vedi un po', allora dimmi quando tu mi senti centrato a 100%, vedi un po', guarda un po', mi senti centrato o come, vedi un po'. Ok, boh, molla così, non ti posso dire il 100% perché non ho l'analizzatore qua, però adesso va bene, quindi sei centrato. E io sono fuori di due tacche? È così, senti, capito a Claudio, secondo la radio che sta usando, allora, secondo che era attento con l'altro che è molto più serio ovviamente con la radio, non mi rendevo conto di questa cosa, perché i filtri molto larghi in AM mi rimangono, ho visto che non si possono regolare. Se tu gli dici, fai una cosa, ti rimetti così, gli dici, fai una cosa, mettiti e prova a centrare, tu conti 1, 2, 3 piano fino a 10, a 20, a 30, e poi dici spostati da 75 a 76, e lui vedrai che a 76 ti dice, guarda che a 76 ti ascolto meglio, aumenti di un metro punto di Santiago il segnale, capito? Anche se non hai analizzatori di spettro, oppure se ne penso, se entra Massimiliano Retro, dice a lui, tu dice esattamente la frequenza, perché lui c'è l'analizzatore. Ho capito. Ma io non per me andare contro chi o co. Io ho sempre modulato su questa frequenza qua. Mi sono sempre centrato così, vedi, come sto modulando adesso. Ma nessuno mi ha fatto mai obiezioni. Tanto meno che vado a spalliere. Sì, perché ti dico una cosa, lo so, ma se io adesso ti ascolto col Galaxy Sat non ho problemi, se ti ascolto dal 950 non ho problemi, se momento mi rendo conto, se mi sposto che leggermente mi aumenti, con 850 se non ho provato, con l'altro baracchino del provato ti sento bene, però con questo mi rendo conto, perché gli ho stretto proprio la banda quando l'ho parato, no? Proprio, e mi rendo conto che sei leggermente spostato, se entra qualcuno edificio tipo Massimiliano dovrebbe entrare, che lui c'ha il Perseus, capito? Quindi c'ha tutta l'analizzatore di spettro, quindi ti vede la lui ti dice esattamente, ti dice boh, fermati così, ti dà la posizione esatto di quel fine corsa, per essere perfettamente centrato, ma 99,9 di tutti quelli che ti ascoltano non se ne rendono conto, perché non c'è nessun problema di così poco, soprattutto in AM e con tutti i baracchini, nemmeno con Radio HF crei problemi, se non è stretto di banda, se no non crei problemi, però guarda, tranquillo, sei sfruttato al 0,76, se ti capita qualcuno come lui che entra un attimino e c'ha lo strumento, te lo dice esattamente di quanto sei spostato, io ti sto dando una cosa empirica, Sì, sì, sì, va bene, io lo metto in dubbio, no, lo metto in dubbio, perché questo tipo di apparati purtroppo il difetto lo trovano sempre sia in USB e via dicendo, e in banda laterale, capite? Sì, infatti, adesso ti sei rispostato, infatti, sì, infatti io su questo qua, cioè non vale la pena, perché tanto in Italia uso in banda laterale, allora, su questi qua infatti parlavo addirittura su Galaxy Saturn e tutta questa serie qua che monta la 3006 dentro con la scheda, parlavo addirittura di fare una modifica, di mettere intorno di stabilizzare il quarto, quindi mettergli una specie di cuffietta che praticamente con una termoresistenza, quindi per tenerlo sempre a una temperatura costante, e poi c'è tutta una modifica da fare sul proprio su cosa c'è il fine corsa, ci sono tutto due letto qualche cosa, proprio per renderlo stabile, perché il problema di questi apparecchi, capito? Ovviamente per l'uso che facciamo noi è una pazzia fare quella modifica, non è che è così grossa, però è una stupidaggine, non fa fare niente, però comunque saranno, io adesso non so che apparecchi ci usano, però mi sei dato che tu stai usando la stessa scheda che montava il Galaxy Saturn, hanno tutti questi problemi, compreso il mio, l'altro giorno infatti stavo uscendo e mi ha detto, infatti io ho detto sei fuori a uno, ma signora ha detto anche tu sei fuori, mi ha detto, infatti me l'ho messo lì, mi ha attaccato il frequenzimetro, e aveva ragione, e allora glielo tutto quanto riallineato, e mettendolo al centro, no, il fine corsa, perché anche me avevo lo stesso problema, però poi, c'è una volta che tu lo muovi, anche se lo rimetti al centro, sei sempre leggermente spostato, non hai penso quel fine corsa che fa, se lo metti al centro e fa stack, e poi come ti sposti e poi stack, è una posizione intriga, anche se da noi vieni qua dentro, lo centriamo, giriamo in prima per il centro, tu poi quando vai a girare, non hai un diciamo proprio il fine corsa che lui quando giri, visto poi, che adesso può essere multipotente, fa stack e poi va da una parte, si apre, poi si richiude e va dall'altra parte, sono proprio le potenziometri normali. È preso. Ma non lo so, io ho sempre modulato con questa radio, Fabri, niente di strano che sia come stia dicendo tu, ma nessuno mai, cioè mai, non ci hanno mai fatto caso, capito? Tipo Antonio Conte, che dire, Claudio Sparviero e via dicendo, dai. E questo qua l'unico che te lo può dire alla fine, qualche sbattica qua, sempre è Claudio. Se pulisci qua, fammi un ascolto a 0,75, poi gli chiedi fammi un ascolto a 0,76 e gli dici dove mi ascolti meglio, lui sicuramente ti ascolta bene a tutte e due le parti, perché il 440 c'è una banda più aperta, rimane in AM, e ti dirà a 76 ti sento meglio, per quello dipende dall'apparecchio, se c'è una banda larga non è problemi, non va problemi, però qui non lo stretto molto questo per problemi miei, la storia mia, oppure quello se uno è un po' spostato lo sento subito, poi non problemi, non era solo giusto per chiacchierare, non ci mancherebbe altro, non vorrei essere invalente, mi fa che no, vabbè, ma se tu mi confermi così, cioè adesso io vedo, posso fare una prova anche con te, spostarmi, ecco, vedi, leggermente così, tu mi ascolti meglio. Gli altri come mi ascoltano? Punto di domanda. Prova a chiedere, probabilmente gli altri non si sono nemmeno accorti della differenza, se non hanno una radio molto selettiva, non sono accorti della differenza sicuramente. Io non sono accorto, infatti mi sono spostato ai 75 adesso. Se un giorno capita che sei libero, che una mattina, che sono libero io, passo un attimino qua e te lo faccio vedere, attacchiamo a un carico fittizio, di poi attacchiamo il frequenzimetro e lo vediamo subito se com'è. Diciamo, lo rimandiamo importante e ti rendi subito conto di quanto sta sfarfallando. Positivo. Avanti, Robe. Senti, però sicuramente sì, è quello che ti dicevo, no? Praticamente con un barattino normale, ma no, ora sì, io nemmeno me ne rendo conto, per capirci, quando sono normale sì, io non me ne rendo conto, per quello che ti ho detto, nessuno se ne rende conto, perché se tu passi con un barattino normale a 75, 74, 76 o anche 77, stai tranquillo, se non se ne accorge, nessuno se ne accorge, con un baracchino normale, oppure anche con una carta col filtro molto largo, non se ne accorge nessuno, no? Però se c'è un filtro stretto, uno se ne accorge, senza problemi. E quello che ti dicendo, infatti molte volte ormai sto evitando di usare questo, perché la maggior parte sono tutti leggermente spostati, ma accendo il taxi e non ho più nessun problema, però secondo l'apparecchio che ti ripeto, meglio o male, tutte l'altra volta c'era lo stesso, ma io esco sempre con io, tutti i problemi che ha fatto, se mi sfuggi il nome, che me l'ha dato un attimino, gliel'ho riallineato subito, ma lo stesso problema, era 77, con i baracchini non avevo nessun problema, quando gli capitava che iniziavo di sentire aveva questo problema, era leggermente spostato poco, di 75 a 77, ma... Sì, vabbè, ripeto, ho anche ragione, perché quando si va in USB la cosa è tribula, è lavoro centrale, stracentrale, chi mi ascolta così, chi mi ascolta là, e in effetti sono veramente d'accordo con te, proprio, non ci mettono il dito nella piaga, perché in effetti è così, quando un baracchino è centrato deve andare sia in USB sia stazione normale, diciamo, positivamente, ecco, tutto lì. Sì, ma è così, adesso si è centrato, per esempio, capito? Adesso si è spostato, secondo me lì, ma si è centrato. E che non c'è Claudio, ancora non c'è cazzo Claudio, gli 11 già a letto, come le galline ha fatto, ma non è tu, io sono uguale a lui, Non si crede che Gerlario sia a letto, Gerlario ascoltando, e lui è curioso, capito? E c'ha le orecchie da porco, capito? Lui c'ha le orecchie da porco, e tu lo chiami ma non entra, perché infatti i porci fanno così, con gli crescono le orecchie, no? Poi qualcuno gliele rosicchia magari, ma non entra, vedi, ti sto ascoltando, ma lui non entra. Pelose si dicono, pelose. Porco pelose, anche se lo offendi, non entra, capito? Poi dici, ma ascoltando stavi, e lui che dice, no, è ballecca. Comunque vabbè, sono me spostato, perché adesso sto guardando, guarda, adesso metto normale, guarda, ma adesso sono proprio al mezzo, vedi un po'. E infatti si è spostato al 76, tranquillo, se tu sì, ormai dovevo fare, ah, in banca devo andare, no, la raccomandata, ma lei così mi è arrivata una raccomandata, spando che non sia qualcosa di onfio, se raccomandata a me mi si girano quando arrivano, no? Allora, quando vuoi, passi insieme, qua lo vediamo subito, se... e poi faccio vedere, qua, 2 secondi, lo mettiamo sul tavolo, sul banco, lo vediamo subito. E io? Se non sono discreto, perché io esco molto molto presto la mattina, non è che è nero, se capisci, hai capito, se no il verticale te lo posso dire. Nero, no, dimmi, ma tanto già lo sanno tutti dove abito. Nero, hai qualche vettura nera? No, io già lo sanno, cioè, guarda, tanto ce ne sono poche a Sassari come la mia macchina, c'è una Jaguar grigia, quindi lo sanno tutti ormai, l'hanno vista. Caspitino. No, è una domanda, perché io quando esco con mio figlio a quattro zampe, ce n'è sempre una fuori strada, nero, non devo, posso dire altro, eh? No, non è la mia, io guarda, mi puoi vedere, o con la Modus dove c'avevo il baracchino, oppure con la mia, ti ho detto che ce ne sono poche a Sassi, c'erano di quel colore così, ma ce ne sono solo due o tre, ne ho visto solo un'altra del colore mio, e poi una nera mi sembra, cioè, quindi non è che ce ne sono molte. E poi probabilmente capiterà di vedermi quest'estate, sono riuscito a immatricolarla con un Dual Alfa Romeo del 77 gialla o del 74, non ricordo bene. No, proprio per me è giusto, perché io guardo molto, faccio, però ovviamente tengo tutto dentro di me, perché non va bene anche in frequenza parlare, però ho optato questa nera proprio prissi e ciprissi, parlo di ciprissi, però mai pensavo che fossi tu, ma no, sai, negativa la cosa, è negativa. No, non è una macchina, mi bombolino già mi vede ogni tanto, avanti bombolino. Ma io già lo so che macchina è, forse stai parlando della Porsche, quella lì è ricordo, la macchina nera, quella lì è Marco, non so che ti riferisci, ma io già lo so. Non è quello che voglio, cioè, toccare il tasto di quello, è che c'è un, come lo posso chiamare, no, individuo anche brutto, una persona potrebbe essere ancora rematore, però non credo a rematore perché lasciamo perdere, non so cosa parlare in verticale, ma se ci si ascolta e non va bene. Come l'ho detto, Fabri, come non ho detto. Vabbè, quando era buono, ho capito io di ragazzi, sono fuori strada, che so di chi è, però lo vedo spesso, ma basta, poi altri non ne conosco. Ecco, proprio la cosa, anche perché ormai, cioè, mi prima di essere stato, ma ormai saremo una vicina che muoviamo in quel caffè da Sassi, non di più, e ci conosciamo tutti, quindi ci è capitato di incontrarsi a berci un caffè, di fermarsi a chiacchierare al quadrato, quindi sappiamo bene mai tutti quanti come siamo fatti, la macchina che abbiamo e le scarpe come sono, capelli come portiamo i capelli, o bella bionda, sappiamo tutti di tutti ormai. Ehi, Fabri, dai, capisci a me? Capisco. Che bello. E niente, dai, niente, sì, Fabri, io non metto dito nella piega, perché, cioè nella piaga, perché ovviamente mi è stata già fatta questo discorso che era spostato, e non lo metto in dubbio, non c'è problema, io porto il nero da te, se è possibile, vedere un po', va, tutto lì. E quando vuoi un giorno lo vedi, perché tanto ne sono sicuro, dico, non per altro, perché lo sto vedendo. Allora guarda, se scrivino, se come non c'è problema, se no ti facciamo una ricerchina veloce con lo scrivino o qualcosa, ma comunque lo vediamo vicino al quarto, c'è sempre il suo cosù, Giuli, lo attacchiamo in un attimo, in un giorno che capita, una mattina nata che sei libero tu, che sono libero, ci vediamo, ci beviamo un caffè, tanto abitiamo vicino, sarei a casa un attimino e lo vediamo subito, te lo faccio vedere dal vivo qua, tanto lo facciamo vedere in due maniere, una col frequenzimetro in uscita, in trasmissione, qui lo vediamo in ricezione, gli attacchiamo il generatore con la frequenza a campione, glielo sbattiamo dentro e lo vedi subito se c'è entrato anche in ricezione o no, due prove veloci, e poi in genere è un tu lo vedi in trilogia, in genere può essere sul verde, lo vedi piccolino vicino al quarto, è semplicissima l'operazione, dai. Sì, proprio io metto, ti ripeto, metto il dito perché nella mia ignoranza ovviamente, no, niente, non potete aggiungere parole, dai, tutto lì, va bene. Io poi mi è capitato quando di guardare un analizzatore di spettro di a casa di un amico che c'era, ho visto proprio, ma guardate, non c'era quasi nessuno, proprio centrato non c'era quasi nessuno, ma compreso noi, infatti mi ha detto guarda anche tu quando dici altre volte, lo so, non sono perfettamente centrato, soprattutto un po' con tutti, perché poi poco, se c'è proprio un analizzatore lo vedi subito, siamo un po' tutti quanti, un po' chi più chi meno, è così, poi la maggior parte degli apparecchi sono apparecchi vecchi, che hanno un sacco di anni e quindi è normale che slittino leggermente, dai. Poi per come li usiamo noi in questi qui con altri barattini, anche se ha 20 anni, 30 anni, e non gli è mai stato toccato o riallineato, non ti accorgi, non ti ha nessun problema, capito? Non sono tecnometrici dove magari vai a modulare con apparecchi giovani che sono perfettamente, te lo dico, se fai un po' di ascolto, guarda, se leggermente, qui immaginati un po', va bene, adesso vediamo se c'è Bombolino nuovamente, avanti Bombolino che lo stiamo lasciando in parcheggio. Aspetta, guarda, lo sto passando un po'. Aspetta, vai. Vedi un po'. Mi fa voce voce. 1, 2, 3, 4, 10. Così che è bene, dai. Tieni ragione, sono spostato. Vai, Bombolino. Ma Bombolino è fatta il sonno. Perché quanto usano adesso lo fai? Sempre subito sogno. Ti hai girato, dai. Bombolino gli si è spenta la bomba, No, più c'è troppo sonno adesso. Sì, adesso va bene, non c'è problema. Per esempio, infatti, quando ascoltate mi giravo di poco, a Bombolino mi rigiravo e mi rimettevo in frequenza. Bombolino più o meno è centrato, non mi crea problemi. Però se c'è Bombolino, ti ha sentato qualche Bombolino. Orca miseria, orca. Orca miseria, orca. Capito. E il gode non c'è più, anche lui sta ascoltando. Gode, gode, beh, gode innamorate, gode. Non c'è più nessuno. Io ci sono stato a fare una chiacchierata, poi mi rimprovera, non ci sei mai, io stavo lavorando, non ci sei mai, che entro io, e non entra lui, forse ce l'ha con me. Penso. Ascolta, e a proposito, io ascolto l'altra sera, tu sei in ascolto, mi ha fatto molto piacere ovviamente, intendiamoci proprio di che, però dovevi fare qualcosa per trasmettere, ricevivi ma non trasmettivi. Io posso trasmettere ma ancora non ho praticamente, era lavoro, stavo al computer non lavorando, sto facendo la verità delle cosucce, era al computer e vi stavo ascoltando, no? E in remoto un ricevitore, quindi stavo ascoltando. Però vuoi trasmettere, puoi andare in trasmissione, nel senso che tu vai in TX e glielo mandi, non c'è problema. Però in fonia devi, non devo studiare, devi farci qualcosa, vai dietro, devi collegare sul microfono una scatoletta, una porta e una band, non lo so, ma la verità non devo guardare, però si può fare volendo, bisogna probabilmente, non lo so, la verità dire solo stupidaggini perché non so, perché siccome dal programma riesci a mandare in trasmissione l'apparecchio, quindi dall'iPad per esempio che utilizzo dovrei usando quel microfono sbattergli dentro, non so se con qualcuno sentito che lo fa con Skype e poi entra dentro la radio, dovrei studiarmelo, non lo so la verità, oppure invece studiarmelo chiedere a qualcuno che l'ha già fatto, magari vendono già qualche scatolotta pronto oppure qualche kit, non so se ci sarà qualche disaccoppiatore, non lo so la verità, non ho idea. Dovrei vedermi anche il manuale della radio, se c'è ingressi di fonia, non lo so la verità, da controllare, mi direi tante fesserie, quindi meglio che mi stia zitto. No, gappa, il discorso è che dai, ne sai più di più, tutto lì. Se mi dai 2 secondi Fabri riprendo, se non devi chiudere. No, già sono qua, tanto stavo facendo una cosa, già sono qua io, eh. Ok, dai, 2 secondi riprendo. Dopo chiudere la mia bombolinome, lui. Mamma mia, ho messo. No, sto chiudendo Bombui, ti abbiamo chiamato. No. Dimmi Bombui. Ci sentiamo nel prossimo. Pronto? Ancora sto aspettando una cosa. Mi adesso te la do, ma se riesco a entrare, perché c'è il computer acceso, ci sto lavorando. No. Vabbè, dai. Ma dove sta? Ti metti in tua, così? Muo se tu quello. Guarda che è chiuso poco la vita Facebook, aspetta, guarda che è chiuso poco, non c'entro quasi mai, capito? C'entro solamente per cioè, ti posso dire giusto ma nemmeno, una cosa non mi piace. Non mi piace questo Facebook, adesso lo tocco qua, lo sto cercando che non ce l'ho nemmeno memorizzato tra i preferiti. C'è Antonio Popolo, vedi che c'ho la sua radio medica, questo vuole appunto lì, adesso volevo cambiare, già mi vedi, già mi conosco. E allora aspetta, grazie. Dimmi. Lui sta guardando la cagata dell'Italia. Io guarda, è un bel periodo che nemmeno ne sto guardando di partiti, io ne guardo più, ma da un bel pezzo proprio, l'odio. E prima quelle dell'Italia, nemmeno quelle dell'Italia che sto guardando. Immaginate un po'. Per carità di Dio, guarda, non ci sono parole. Lo sai quanto prendo al minuto? Al minuto prendo 60 euro. Che vedi tu, capito? Una giornata di lavoro. Bravo. Io l'ho sempre detto, sono tutti quanti bambini viziati. E dopo quello addirittura si permettono anche di fare quello che stanno facendo molti. Esatto. Come ha detto Mario Monti, per quanto non mi è simpatico, è anche puntualizzato che non ci sarà nessuna proposta di legge, ma comunque un suo pensiero personale, quindi puramente personale, ha detto che se fosse per lui avrebbe fatto non un anno, due anni sabbatici, praticamente di sospensione del campionato per riflettere. Io ne avevo dato 4. Bravo, bravo. Io ho raccontato questo canale lì, sto entrando su Facebook perché non entro mai, praticamente, che non mi viaggi, gmail.com, perché per dare l'amicizia a Bomburino, me la chiede sempre, e io dico sì, già per la domani sono su internet, e sembra che glielo sto facendo apposta, però in effetti si rende conto, ora lui è mai più, sto facendo casino per entrare, perché è una cosa, sì, che non uso mai, adesso però forse ci sono quasi, ho già sbagliato, ok, riprendi là. Ma così, cioè, come fai tu a pagare, cioè, non pagare, perché non paghi tu, vedere una nazionale dei campioni del mondo, cazzo, cioè, fare quello che, lasciamo perdere. Ma io guardo chi c'era l'Italia, la verità, perché non mi fa entrare mai, se me non è corretto, ma non è corretto. Io non ci sto, non ne sto più guardando, va a zero, sai cosa ne può dire, proprio zero. Non me ne può fermare di meno, nemmeno la partita dell'Italia. Nemmeno la partita dell'Italia, perché tanto è una porcheria, ma tu immagini, persone che vengono ammirate, adorate, da... aspetta, sto facendo un buon burino, dice che non lo voglio con l'amico, ma io non è quello lì, sì, ma io punto com, sto dicendo, c'è gente ammirata eccetera eccetera, si permette, proprio dico, tutti i soldi che guadagna, di scommettere, di fare, di vendersi le partite, ma proprio con la fame che c'è in giro, ma proprio sono miserabili, capite? Gli ho dato 30 anni di galera a pane e acqua. Io Fabri, io guarda, sono pienamente d'accordo con te, perché non si può, ma a volte ci sono neanche parole da dire, ma è la gente lì che paga, Sky, paghi quello, paghi quell'altro, ma siamo per te. Guarda, io televisione non ne guardo più, quindi non c'è né Sky e né niente, capito? E quindi immagino un po' quanto me ne può fregare, ma non ti dico altro. Immaginate un po', anzi mi sono rotta la televisione, 3-4 anni fa, pagata, anche la vergogna di dirlo, quasi 4.000 euro, ha durato 4 anni e non ne vale la pena per ripararla, perché costa di più una scheda audio e buvi, mi aveva già dato un problema e la dovevo cambiare. Ed è lì, la cambio solo perché i miei figli mi stanno stressando le balle che guardano i cartoni animati, se no sarebbe rimasto spenta, se devo guardare un telegiornale me lo guardavo al computer e via, capito? Sì. La fa veloce, è così Fabri. Buon bulino, allora tanto non sono riuscito buon bulino a entrare nel computer, ho capito perché qui controllo, e sto entrando tramite il padre, che questo rimane sempre collegato. Certo, io se lo trovo, perché se no sembra che non gli voglia dare l'amicizia. Buon bulino, ci sono. Cosa ti ho scritto? Bulino o Bombolo? Bombolo, Antonio Bombolo. Antonio Bombolino avevo scritto, Antonio Bombolo. C'è una cosa che non sono riuscito a entrare, comunque sto entrando con le tab, non col computer. Vediamo se nessun risultato non è possibile. Vediamo solo Bombolo. Bombolo. Che casino, perché io guarda Bombolo. Non è possibile, che cerca. Ma senti, io Bombolo o Bombolo? Antonio Bombolo. sbagliato. Muto. Adesso sto entrando pure io, cazzo. Buona memoria. Per cognome ci sono tutte persone la gente è ben messa. E poi ce ne sono un paio, io e un altro zio, che uno l'avevano arrestato per TV, l'avevano arrestato per non so, tipo stalking e questa roba qua, e l'altro sono io che so che devono venire a breve periodo a mettermi le manette caso, per cose strane, non lo so, stai attento. No, che siamo gentissimi, guardate cosa è giro mi è successo, quanto mi sono incazzato. Certo, te lo racconto, tanto. Minchia, mi telefona questo tipo, io ho rapporti, un becci, lavoricchio, e gli ho fatto una segna, non accetta quasi da nessuno, no? E in diretta mi ha detto, ti faccio un assegno, se tu sei per questo mandato non c'è problema, fammi l'assegno, gli faccio l'assegno, gli ho fatto aspetta quanto mi dai, quanto mi dai fiducia, gli ho detto, dopo non vuoi che cambi questo assegno, e lei stava ridendo, perché tu immagini che quando ti torna indietro questo assegno, dice, fatto quel bastardo me l'aveva pure detto che era cambi, e non gli ho tornato indietro veramente, ma gli avevo fatto incazzare. No. Mi ha chiamato e mi ha detto io avevo il telefono spento, allora ho dato un'email, no, abbastanza corretta, però si sentiva che il tono era un po' cazzo di figura brutta. L'ho chiamato prima, ho detto cosa era successo, ho detto no, fa prima, ho detto guarda che non è stato incassato, mi ha detto così, così, mi ha detto poi lui, non so che ora sta serie piccola, si è informato, ha detto no, era per motivi vari, mi ha detto sono capito che era coperto per motivi vari, e prima di entrare abbia fatto cazzo sono andato in banca, lui è cazzo, così l'avevano fatto questi bassi, e anche un altro che è tornato indietro di mio figlio che sta facendo delle lezioni e ti ripago un assegno, ti fate di quella l'ho chiamata io, gli ho detto però potrebbe essere che torni indietro questo assegno eccetera, che cazzo hanno fatto questi, sono andato allo sportello a fare un'operazione e mi hanno tutti allo sportello mi ha detto e guardi c'è una degli assegni che non ha mai incassato, i classici assegni che ogni tanto strappi, dai, capita che, e quindi magari del 2001, 2006, 2008, assegni vecchi, non quelli che magari strappi e quindi non, allora ogni tanto glieli annulli, glieli firmi, e poi ah, sì, guarda, c'è proprio quelli vecchi, dai, fammi una stampa che ti metto una firma per annullarli, e poi questa strada l'ha fatta, ha sbagliato, ha stampato tutti i blocchetti degli assegni, anche quelli in essere, miei di mia moglie, quindi mi ha annullato tutto, capito, risultano anche gli assegni, quelli che c'avevo nel borsello, anche quelli risultavano annullati, quindi che cosa? Mi hanno fatto un casino, quanto mi sono incazzato, perché al telefono di lei, e poi non c'è bisogno, non c'è bisogno, ma ogni mattina sto venendo lì, non c'è bisogno, e se c'è questo atteggiamento, ti chiudo tutto il conto, e sono già tutto un agnellino, e incazzato come una bestia, e magari che vanno a fare questi stronti, bagazzo di brutte figure. Però prima era bella che non è più capitata, non la coglio, uno si infatta perché non mi è capitata mai se ho trovato indietro un assegno qui per colpa della banca, cazzo, ma il bello per questo me l'avevo anche detto, ho fatto vedere quando ti porto indietro direi quel bastardo me l'ha pure detto, cazzo, io volevo tornare la faccia quando gli ho tornato indietro, cazzo, me l'ha pure detto che mi stava sapendo. Forte, alla fine ha abbassato la Grecia, gli ho detto fa la cosa, gli ho detto fammi parlare con la, cioè voglio parlare col direttore immediatamente e non finisce qua, gli ho detto se è fatto di più di conti faccio un paio di lettere da tutte le parti anche al Montepaschi, che sono quella centrale su, alla direzione centrale, spiego cosa è successo, a vedere un attimino se in questa maniera uno dopo 22 anni che ho incontro con lui, sempre uno l'ha più tutto, cazzo deve fare una figura del genere, per un errore vostro, cazzo, cioè, ma tu mi hai detto dovevi guardare, dovevo guardare, ma non so, se mi dici cazzo mettendo la nave degli assegni vecchi, ho fatto da controllare numero per numero anche gli assegni che ho in tasca, ma voi siete scemi, ma infatti tu non hai ragione, in effetti volevo controllare, perché se questo segno è stato incassato di questo corniere, che ha detto 3 giorni fa, quelli che venivano dopo, è ovvio che li tagliavano ancora in essere. Sì, io infatti non ho visto queste cose di volta, me le stai dicendo tu, ognuno il suo lavoro, perché io vengo qui e mi devo fidare di voi, se mi incasinate qui, no, era già fatto, ne hanno dato ragione, anche tanti scusa, ma non avevano visto incassato, e gli ho detto, guarda, non sei detto, io mi conoscete, io sono una parola sola, nel bene o nel male, se questi assegni tornano indietro, non mi vedi più, se arriva una raccomanda, trate un'altra banca che ti chiude il conto direttamente, a me non mi vedi qua, io entro. Assolutamente, per carità di Dio. Che poi gli fa facendo la dichiarazione, che poi quando la costa anche la ragazzina, adesso stiamo andando qua, lì attivo sottoscritto, dichiaro e di linguanda dall'incasso, gli assegni numero, poi. Ecco, ma chi di quanto stai scrivendo picco, stai scrivendo picco? Non mi vedi che c'è quegli occhiali dietro, ora non c'è gli occhiali, non vedi che stai invecchiando, perché forse senti che stai invecchiando, perché tu è normale, c'è lì certo il collega, gli ho fatto ascolto e ci va. Secondo te, la dimensione giusta è coordinato, cazzo, il libro, guardate, la mia impetta, vedi che stai invecchiando, no, che domani non ti stai. Quella, quella è bella, Allora, Giulio, un Gucci 250, bello, bello. Poi, sto provando a vederla anch'io, ma già tutto quanto lo so usare questo Facebook, non riesco a trovare le foto con me, se le sto guardando lui, non le trovo io, che... No, è interrogativo. Ma perché io ho un vespone del Porto Alguasi, dai, diciamo. E dovrei fare il, come si dice, Fabri? Passare una moto d'epoca, cosa dovrei fare? Interrogativo. Allora, appunto devo avere 20 anni almeno la moto. Però guarda, alla fine, a quanto ho capito, a me, se la moto non ha 30 anni ormai non te la assicura nemmeno come mezzo storico, quindi non ti conviene fare niente, perché la pratica è lunga, nel senso che la moto deve essere a posto in ogni suo particolare, adesso sono molto più pignoli, e poi devi iscriverti a un club, devi iscriverti all'ASI, se la fai con l'ASI per esempio, all'ASI, devi dire pagare la quota nell'altro, poi devi fare tutta la pratica, eccetera, eccetera, un costo non altissimo, e poi dopo tutto questo viene immatricolata, viene considerata moto storica. A quel punto mi serviva per fare un'assicurazione a basso prezzo, però adesso se non sono tutti più metri che le assicurazioni che la Toras si riassicura, dipende se non ha almeno 30 anni, infatti le mie me le assicurate perché hanno tutte più di 30 anni, se non addirittura 2.8 una moto, infatti, che è del 79 o dell'80 adesso, quindi fatti conto, ne ha 22 anni, 23 anni, quella non me la volevano assicurare, l'hanno lasciata solamente perché ce l'avevo già da 2 anni assicurata, l'anno scorso, che una Vespa 50 Special, Bombolino magari la sta vedendo, una moto 50 Special, rifatta proprio in maniera bella, maniera tale, come ce l'avevo da ragazzino, e quella per esempio non l'assicurano più, un esempio. Ho capito. Ah, non viene niente, fa la situazione normale, niente, da una rigenerata, cioè controllare, come si dice, le luci, via dicendo, passare la revisione tutto lì, cioè parla una cosa normale come non potesse fare con una vettura, tutto lì. Sì, infatti, no, guarda, o ti informi, magari come Vespone, puoi chiedere se rientra nelle macchine, nelle moto d'epoca che lo rassicurano, lì c'è una moto storica che sta passando lì, in via Torino, di fronte a via dei Marcini, salendo, no? La tua assicurazione, motorina, la tua, gli chiedi se per caso quel mamotto rientra, allora se rientra puoi anche pensare di farla perché paghi, io credo che una moto del genere paghi intorno alle 70 euro all'anno più o meno, se hai solo un metro, io ne ho 5, quindi pago in base al 5, quindi un po' di meno tutti. Sì, via Torino a che altezza? Via Torino, la Toro assicurazioni dovrebbe essere via De Mancini, e altezza di fronte alla banca. Ah, che ha pagato, ho capito. Capito, mi pare se l'ho trovato anch'io, allora Bombolì, ma qui non ci sono tutte, perché non ci sono tutti quelli che ci ho i mezzi, ce ne sono qualcuno, e beh, quello di Spina ti piace? Ascolta, l'altra Vespa monosella, il 150, non c'è qui, non la vedi? No, non vedo uno che c'è... Ecco qua. C'è il tuo figlio. Sì, però voglio dire, adesso io non so nemmeno dove guardare, mi ricordo che no, che ci dovrebbe essere. Ma non c'è una Vespa sul celestino chiaro, monosella, no? Sto guardando, ma vediamo un po' che c'è. Questo pezzo che è smontata, questa roba smontata sta preso. Già c'è foto 36, già c'è ci sono, non so se però tu le vedi, non so se le vedi queste qua, non so se le vedi tu, tutte sono aperte, non lo so, nel senso non so se sono aperte solo a me o agli amici, che sono modificate, foto scattate, aggiornate, Vespa VB1, aggiungi, ma ci dovrebbe essere, guarda nelle foto. Sì, forse ci dovrebbe c'è scritto Vespa 150 VBB1 e c'è mio figlio quando è arrivato in garage seduto sopra, un bambino piccolino sopra seduto, ancora tutta montata, è un relitto comunque. La vedi col culino già scalmato, che l'aveva drizzato, lo vedi quella cosa verde, quella del turno. Dopo che l'avevo lavorato, vedi che c'è il pannello anche, filo continuo, vedi, quello vedi il fondo, e qui è verniciata, l'avevo finita di verniciare, vedi, due volte l'ho fatta, perché dopo questa qui l'ho finita di verniciare, cioè, vedi le foto, uno spettacolo, l'ho finita di verniciare, mi si rompe il filo, cade in terra e si è tutta disintegrata, l'ho dovuta riportare a zero e rifare due volte, mamma mia, no. Era finita, verniciata, pronta ad appiazzare, si cade il filo, cade, si è puntato lo scudo in terra, si è tutta piegata, si è anche tagliata la lamiera, come l'ho vista mi stava mettendo a piangere, come sto male, l'ho dovuta smontare, cioè l'ho dovuta smontare, l'ho dovuta tutta quanta riportare a zero e rifare da capo, una pazzia, infatti non la buo subito questa moto. Come sto male, hai visto come è uscita? Da chiudere cosa hanno tirato fuori i bambù? Ho visto. Cazzo, io non c'ho ancora un mano, cazzo, mamma mia, è una bella. Che cosa c'avevi in mano che ti hai fatto sfuggire? Via. Un router, guarda, minimo aveva avuto, non dico molto, ma 50, 60 anni, buoni. Sono pezzi da tenere e fare con calma, capito? Solo che guarda, ci vuole, per fare questi metri, ci vuole, ma sì, ma ormai ci vuole prima di tutto la passione, se non c'è passione, lascia forte. Poi ci vuole, e quindi se c'è pure la passione riesce a farlo, perché dopo lo fa fare, però non c'è gusto perché dice me l'hanno fatto, no? Io ci trovo gusto, io questa moto, per esempio, come ti posso dire, tu considera che quest'anno queste moto non sono ancora uscite, e probabilmente tra una cosa o l'altra non vuole nemmeno tempo di farci 10 km per ogni moto, però sapere che sono ricoperta per me, sono le mie, capito? Perché le ho costruite io, le ho rifatte io, e quello è il gusto. Poi quindi se te le fai tu ci vuole molta manualità, devi conoscere cosa stai facendo e poi soprattutto devi essere proprio, che devi buttare soldi sopra, se no non me ne iniziarne. Sì. Vabbè, ma questa era spettacolare, aveva un punto 2 massimo di ruggine. Perché quando è così è conservata, quindi se tu è funzionante la metti a posto, a me sinceramente ci sono due come si può dire, due scuole di pensiero ci sono, no? Una è la mia, che secondo me una moto è di queste vecchie, che loro le chiamano vecchie, queste moto storiche, una moto di 50-60 anni va presa, secondo me, smontata nei minimi particolari e riportata al vecchio splendore, quindi con tutti i pezzi originali, li porti a cromare, li ricostruisci, li fai, alla fine deve tornare come nel primo giorno, anche più nuova, proprio perfetta, e tu anticipo, un uomo che ha 60 anni che ne avrete uscendo dalla fabbrica. Questo è il mio punto di vista. Poi c'è un'altra scuola di pensiero, che è quella che se tu hai una moto in buone condizioni, non usata ovviamente, ma in buone condizioni, quindi si dice conservata, una moto in buone condizioni conservata, quindi tutta perfetta, nemmeno in particolare, anche se c'è un puntino di ruggine, che c'è la vernice scolorita, che c'è quello, così, per esempio vedi la vecchiaia della moto, la sella vecchia, un po' male. C'è poi un'altra scuola di pensiero che comunque così tenuta ne trovi veramente pochi ormai, perché trovi rude che devi mettere a posto, e poi un'altra scuola di pensiero. A me non piace averle così, la verità. E quello che sta dando lo stesso valore di una moto rimessa a posto come quella che ho potuto fare io, per esempio. Sì, vabbè, devo operare la giusta. Quindi sono gusti, no? Tra gusti e sapori non si discute. È vero, poi a me piace prendere il rudere, smontarlo completamente e riportarlo ai vecchi splendori. Se adesso mi chiedono mai, io ti avevo chiesto, ti avevo mandato queste cose, quelle vedevi per dire cosa intendo. Bombolino sta venendo e quindi capisce cosa intendo io per rimetterle in ordine. Se quel capitano un giorno mi vede in giro con uno di questi mezzi, sarà difficile, la verità, più che altro quest'anno potrà capitare con la macchina, perché quella la uso un po' di più adesso, perché visto che quest'anno dopo 2 anni sono riuscito a immatricolarla, siccome l'ho portata dall'Olanda, quindi sono riuscito a immatricolarla in Italia, e quindi magari la uso anche perché viene bene a farti un giro con i bambini, eccetera eccetera. Però questa volta sarà difficile che quest'anno escano. È positivo, sì. Buon guido, fa un giro in moto. Un figurone mi fai con la moto rossa. Come sto male, cacchio. D'accordo, sei andato senza salutare. Io. Ok, dimmi. Ma questo che fai tu o li compri direttamente nuovi? Ormai più o meno trovi tutto, capito? Dipende. Cioè, di questo motore ti posso dire, aspetta, di quello che vedi, il telaio l'ho ricostruito io, non so se l'hai visto, col cannello sopra, eccetera. Il motore, ovviamente i cuscinetti, tutta quella roba lì li trovi. Il pistone 80 cilindro qua, questi sono gli originali, sono nuovi perché li ho messi al tornio, ho spianato le teste, lucidati, capito? Quindi c'ho il tornio, me li faccio io, anche se poi puoi rettificare, ma alla fine li ho, poi questo punto gli ho messo un pezzo di nuovi 150, questi cilindri me li ho messi 150, sono ancora da rodare, perché questa moto credo avrà fatto non più di 150 km. E poi per il resto trovi tutte le scritte, queste le ritrovi, la sella, le ritrovi ricostruite, le fai rivestire, le fai rifare, trovi tutto, capito? Quindi questo è tutto quello che vedi, più o meno è tutto originale, tutto, anche il faro, il faro qui non ce l'ha, il faro è stato pulito, rifatto, tutto originale. Ovviamente è normale, però queste erano perfette, quindi posto preferito in giornata. Sono imbarcato la notte, ho sbarcato, sono arrivato a Napoli, li ho caricato la sera, ho rimbarcato. Per dirti, sono andato direttamente a Napoli, con Vespino è uno di quelli due motori, quello l'ho preso, quello addirittura non c'è stato, non avevo bisogno di sabbiare, era perfetto, è stato portato con una bella nevicata quasi a zero, è stato dato il fondo, il possibile fisico proprio aveva tutto un trattamento e poi è stata vermiciata. E poi ripiazzata, il motore era nuovo, perfetto, l'ho smontato, l'ho pallinato, è anche una vergogna rifare quel motore, tutto rifatto, l'ho fatto come quando avevo io 14-15 anni, no? Uguale identica l'ho fatta, praticamente visto se la lunga, e basta, proprio se è tutto originale, alla sella lunga, come c'è la lei, il muscolo è un muscolo elaborato, c'ha la campana, la chiamano 90-20 dritti, la chiamavano quella lì, poi c'ha i pezzi 100, l'albero anticipato della Mazzucchelli mi sembra, carburatore 19, pupetta lamellare, e il marmittino. Capito? Ecco, guarda, come c'erano le ragazzine, ce l'avevo così, in mezzo del marmitino avevo il Proma, il così chiamato Proma, era la classica, non era la mia moto quella, e quindi avevo rifatto quella identica come ce l'avevo le ragazzine, per quello ho detto, sono molto affezionata a quella moto. Lo so. Questa tu consiglia che a puntino invece arriva a 85-90 a puntino e se acceleri lo trovo a puntino, se acceleri va di più ovviamente, ma non la sai perché non scola l'allarmittino. Questa è molto che se gli metti una vermetta con il cammino, ma a me non interessa, a me è giusto, l'ho fatta perché c'è così, c'è la volo ragazzino, quindi metto lo spicchio, no? E quella l'ho usata un po' di più l'anno scorso, solo che ti ripeto, non ci vuole tempo, e poi sotto casa c'è il garage, c'è un posto auto coperto, no? Lo abito io, quindi c'è il garage, e nel garage riuscivo a farci stare la mia macchina e dietro ci metto la moto, no? Però da quando ho acquistato questa macchina 8-9 mesi fa, se non mi ricordo, è un bel lunga, questa è lunga 5 metri, non ci sta più, mentre prima avevo un 320, un BMW 320, no? E quindi ci stava, dietro riusciva a farci stare una moto, quindi avevo sempre una moto, ogni tanto ne portavo una, ne riportavo un'altra e li usavo ciclicamente, no? E invece adesso, non avendo più il posto dove metterla, se devo uscire in moto devo poter avere la giornata libera, la mattina libera per scendere lì, tirare fuori la moto, farmi un giro e rimettere un lavoro, e quindi non sto usando per quello, mi servirebbe, infatti sto cercando se qualcuno qui sotto casa, qualche posto sotto, qualcuno che lo sta vendendo, affittando, non lo so, proprio poter portare qui e poterlo usare, se no non lo posso usare, capito? Quindi l'anno scorso li usate, ti ripeto, me la mettevo dietro la macchina e ci stavo, adesso quest'anno la macchina l'attacco quasi al muretto e spunta anche poco, cioè praticamente mi esce quasi fuori dal posto alto e non ci sta più niente, è troppo lunga questa, ho sbagliato come misure, se l'avessi vista prima non avrei fatto questa stronzata, perché non ho più posto per metterci una moto dietro. Ok, ci sentiamo lungo il mio anno, per tanto anche i miei altri 5 minuti e poi spengo tutto, ma vado a letto. Ok, domani mattina vengo a prenderti una ruota, ce la facciamo con Vespina, te ti metto dietro e dobbiamo il quadrato, curva contro curva, una ruota, alle 9 fatti trovare che andiamo a fare un po' di fuoristrada. Scrivimi, la motivazione è più che occorsa, non serve a niente. Ma riesco ad ascoltarti, cioè lo devo cambiare, infatti ho cambiato perché non riesco proprio ad ascoltarti. No, ma che cosa c'è? Dimmi esattamente, a parte quello che si vede a livello strumentale, cosa si vede c'è? Allora, c'è tutto quello perché io ho perché io cioè in comprensibile, prendi la dico, ti sto ascoltando, sono col Galaxy Saturn. Con questo problema mio, ti ascolto, sì, lo sento che non sei magnifico, però buona, apprezzabile, non ho problemi, capisci? Probabilmente come qualsiasi, però quando ti ascoltano magari con una radio un po' più seria, un po' più selettiva, magari come che fa il tetto ti sentiva proprio male. Guarda un attimino, se ad esempio parlo così, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova, come va? Forse è meglio, ma adesso non ho problemi, dico, c'è un po' l'altro baracchino, ti ascolto bene, non mi chiama problemi, veramente, cioè, per me non va bene, con questo non ho problemi. E il segnale invece com'è? Viene avanti? Ora 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ora, ora, ora. Allora, con questo che non lo vedo perfettamente, perché come posizionato intorno ai 9:20. Ma c'è ancora Falchetto? Non lo so, stavo parlando un mumulino che l'ho chiamato e non mi ha risposto, probabilmente si è allontanato un attimino. Ma poi lo dirò. Poi dice facciamo una rossa. A proposito, la vuoi la maglietta stampata dell'associazione? Sì, vabbè, sì, se dell'associazione sì, quando facciamo qualcosa ce la mettiamo. Lo sto facendo, devo fare anche Gianni e qualcun altro, dobbiamo fare la prima riunione adesso. Vabbè, già la voglio, ho detto che certo se la usiamo farla, se no non ne vale la pena, cioè stare lì a fare magliette così, però certo se ci serve che ci riuniamo, facciamo qualcosa, qualche ben venga, ce la mettiamo e siamo tutti uguali. Ma cosa c'hai tu di misura? XXXL. Ma cosa c'hai? Beh, non lo so, aspetta che guarda, c'è il pigiamino. Aspetta. Aspetta. Dovete essere una M. Ma lo dovrei togliere, non io voglio una vera, ascolta, comunque sono una, dovrebbe avere una M, una L, non so, una 50. Una M, dai. Sì, è bella. Più o meno, forse perché una L, dipende, non lo so. Cazzo, le cuffie ho sbagliato, le altre che c'ho dentro, cazzo, danno un caldo, sono quelle da combattimento, ma sono troppo calde. Ma quel barattino che c'hai, quello che c'è la base, no? Perché non usi quello? Perché non lo uso. Mi sembra usciva bene, no? Ascolta, ma il 140 l'hai venduto? Non me lo chiamo da più, non mi devi richiamare. Mi devi richiamare, però tutto fermo e sappi che tutto fermo, ma cazzo è una cosa, è una vanna in giro che si taglia a fette. Aspetta, sto guardando che non tocchi, se mi si sgraffia. Aspetta, c'è tutto fermo, se lo devo dire fermo, dimmi. Io adesso a ottobre devo fare un investimento, 15.000. Cosa si può fare? Lo devo fare. È assoluto mondo. Avrei valutato, quindi si può fare. E domani si rinizia a lavorare e dubarle. A me Luigi, cazzo, è ora in tre notti. Domani sarà tutto bella, assorso, tutto bella. Poi c'è un concerto jazz due giorni, poi c'è Piazza Tora con gli amici tuoi, un'altra serie di cose fino alla fine del mese. E io vuol dire c'è la porra. Indubbiamente, però è un fatto sano, fisicamente mi fa davvero stressando. Lo so che il lavoro non è fatto per te. Infatti te l'ho detto, ma a settembre si vende tutto e si realizza. E sta bene, lo spiego qua, nel buio, stavo cercando. cercando di provare un programma, ho fatto fare un bel programma di decodifiche che vanno bene, se no, non sono riuscito a far funzionare, poi stiamo facendo sempre alternativi, mi avete distratto un altro programma perché volevo fare un paio di prove ma non ci sono riuscito. E vabbè, dai, ci proviamo domani. Così. Aiussi. Aiussi. Ascolta, perché quando era ti arrivata per esempio da Cagliari? Quella della convocazione. E basta. Perché no, prima quella era del bollo. Che non ho messo. Poi questa qua. Niente a me. No, perché domani mattina devo andare a ritirare una raccomandata, adesso mi è venuto in mente, vedere se non era qualcosa inerente alla patente. Alla diribussi, alla tiremollette. No, non credo. Sì, in effetti mi sono arrivati due dei quintali, erano di tutte e due le macchine. C'è stato un anno di 2-3 anni fa che mi ero dimenticato di pagare il bollo di tutti e due, di una e dell'altra. Però poi è stata una dimenticanza. Ogni volta che mi arrivano queste raccomandate così mi preoccupo, sempre roba da pagare. E dimmi quanto devi pagare? Beh, non lo so, mi faranno i conti. Mi è uscita una botta con una tabella. Non lo so, quello ci pensa il commercialista di mia moglie, c'ha tutto in mano lui, non lo so, non te lo voglio dirti, sarà una botta anche lì. Chi è che lo mette come commercialista? Non lo so, non l'ho mai visto, non l'ho mai pagato, io personalmente non so nemmeno come si fa, come funziona, da quando sono gobbizzino ci hanno sempre pensato altri. Io sempre quando sono qua è sempre attaccato, questo rimane attaccato 24 ore su 24. Vai su Facebook e guarda questa cosa che ti dico. C'è anche mai un altro casino, ma su Facebook ogni poco faccio, ho messo un nome, anche la password non mi ricordo, ma quello se non lo uso, aspetta che ci va. Allora, aspetta, e che cosa c'è, perché? Senti, a proposito di frosci, la cagata che avete fatto a sono. poi si è preso appunto di alcuni due giocatori della nazionale che sembrerebbero omosessuali. E diciamo, veramente se sono feroci non me ne farò un fatto. Quindi anche tra l'altro adesso sono feroci, sono curato e sono uomini minori. Cazzo, tutti i bambini viziati, ma non è quello, cioè a prescindere che potrei anche pensare come lui per farti capire, non è, è la forma, cioè tu in quel momento stai rappresentando l'Italia all'estero, stai rappresentando una persona che viene emulata e di colpo a seguito anche di pubblicità come possono essere quella dell'omofobia, di quelle cagate che stavano facendo vedere da per anni. Dico, dice, se tu dovessi avere un valore, dice, ti interesserebbe che sesso ha la persona che ti viene a soccorrere, cioè quella pubblicità era una delle cagate mondiali. Ma dico, tu con due frasi butti al cesso migliaia di euro spesi dai contribuenti per queste cose qua. E mi sembra di ricordare che l'aveva fatta anche una cagata lì, una sparata lì, l'aveva fatta anche Celentano. Quando dopo che la RAI aveva speso miliardi per fare la campagna Progresso per la, come si dice, per, la, per il trapianto degli organi, di colpo lui che si era schierato contro e aveva detto con due parole aveva rovinato la campagna lunga un anno. Ma te l'ho detto, questa è gente che l'unica fortuna che ha avuto, l'unica fortuna che diciamo fortuna ne hanno avuto parecchia, però voglio dire, l'unica cosa che sanno fare è muovere i piedi e quindi hanno fatto un mucchio di soldi, però se no, se gli togli il pallone dei piedi, questi sarebbero stati dei poveri disgraziati. Infatti questi qua li spremono per un paio d'anni, dopo di che li butti al cesso, perché questo è un bel peccato, un mio Jabez, ma non per quello che ha detto, perché potrei anche essere d'accordo, ma dico, se in una conferenza stampa, se di fronte ai giornalisti a livello internazionale stai rappresentando l'Italia e dici una cagata del genere, ma perché non ti impicchi? Ma cosa ti vuoi aspettare da questa gente qua? Il problema, la tristezza è che questo qua viene considerato un VIP, che è l'unico modo di very important person, persona veramente importante. Tanto che guadagna soldi quanto pesa, che occupa la sua rottura, l'ultima volta che ha avuto un valore, sono siamo stati 3 settimane a parlare di questo coglione, e dopodiché apre il cesso e dice cagate della stanza. Che tristezza, che tristezza. Sì, ma infatti, se tu hai lottato, io non ne seguo di questa roba qua, ma non solo non ne seguo, tu mi hai detto il nome di questo giocatore, io nemmeno lo conoscevo, il nome non mi diceva niente, perché non sono completamente, qualche volta è giusto come cronaca se vuoi qualcosa, se no zero, riporto zero. Infatti, la maggior parte delle persone non si rendono conto che l'occhio dei popoli di calcio, no? È la classica cosa che viene utilizzata come ammortizzatore sociale. Siamo nella merda, nel giro di 2 anni a metà tra benzina e le stelle, e con essa tutto, dai trasporti alla bolletta della luce. Però c'è gente che non riesce a sbarcare il lunario e che arriva a fine mese e c'ha davvero le tasche bucate, straccioni miserabili, che però sbagliano per il calcio, cioè che sono contenti a seconda di cosa ha fatto la sua squadra, come se gli arrivassero soldi indietro. Questo ti fa capire davvero purtroppo che cos'è la democrazia. La democrazia è uno dei peggiori sistemi di amministrazione di una nazione. E lo dico perché davvero, a pari, cioè il voto di una di queste persone, il voto di una di queste persone vale al pari del suo voto, questa è la democrazia, capito? Vabbè, però meglio questa che niente. Se non ci fosse stato questo ci sarebbe stato qualcos'altro a distrarci bene bene, capito? Mentre noi ci stiamo attaccando a, cioè, volgiamo la nostra attenzione verso queste cagate, i nostri politici si stanno rubando di attimo mi sono mettendo in cassa integrazione, capito? Però è importante che Cassano, Zinca, faccia nuove, tutti faccia nuove, ma basta la cura. Sì, ma ti ripeto, questo è il... Mi annoia, capito, sto discorsi di calciatori, di palloni, di sport, quello sport come il calcio. Allora, mi annoiano, veramente mi annoiano. Quando mi fai il nome di un calciatore, io non so nemmeno chi è, la gente ti dice, cazzo, ma è il calciatore più conosciuto, io non lo conosco, ma non lo dico per fare il figo, se non lo fa per elevarsi molte volte, io non lo conosco, no, io veramente non lo conosco, non mi dicono niente, perché non mi è mai capitato di, negli ultimi anni non mi è mai capitato di vedere una trasmissione sportiva, di leggere un giornale sportivo, di vedere una partita, per dirsi, non sto seguendo le partite dell'Italia, già negli ultimi mondiali e forse anche più. Infatti non credo, io non conosco assolutamente, cioè ne conosco due o tre, ma è giusto perché guardo il, come si dice, i mondiali, gli europei ogni 4 anni, capito? Per il resto non mi ne fotti nulla. E io immagino ti pregiudizio perché non guardo nemmeno più quelli. Proprio zero, se lo vuol dire zero, mi annoia, cioè proprio mi annoia, a me il pallone mi annoia, tutto quello che gira intorno al pallone mi annoia, non lo so perché, però è così. Ovviamente che il mondiale scorso, come ben saprai, abbiamo vinto la parte del mondo. E il fatto sta che l'abbiamo vinto ai rigori, e i rigori in una parte di calcio diciamo che è il momento topico, soprattutto se il gol dei gol, o meglio, se ci sono i rigori che decretano la vittoria a livello mondiale di una squadra. Cioè, lo stesso questo amico di mio padre non gliene può fregare niente, dico del calcio, e l'avevano invitato lo stesso a questa partita, ma giusto per stare insieme a questo. Aveva rotto le balle quasi tutta la partita, finché a un certo punto al più dei rigori si è andato in piedi e ha chiesto, beh dai, adesso facciamo i punti per dividere quello che avevamo mangiato. Cazzo di mano del culi, ma forte forte, no? Guarda, io ti dico una cosa, adesso tu dei mondiali per esempio me l'hai ricordato tu, perché non ci avrei scommesso se mi avessero fatto una domanda, che ne so, l'ultima domanda per vincere 1 milione di euro oppure rimane a 500.000 euro, se ne hanno vinti l'Italia mondiali, io avrei detto rimane a 500.000 euro. Stupido, nel senso che è lo sport più stupido di questo mondo, perché devi mettere la, come si dice, la nazione americana ha più sport, come possono dire, la più importanza, più sport, perché c'è il rugby americano, football americano, stimi il rugby, c'è il baseball, c'è la pallacanestro, ci sono tutta una serie di sport che vengono, diciamo, su cui si puntano i riflettori in America. Perché invece in Italia sia i soldi del comune che l'attenzione degli sportivi è rivolta al 90% sul calcio. Lo dimostra il fatto che la vergogna che 15 anni fa, 20 anni fa, se non ricordo bene, i fratelli Abbagnale, i campioni olimpici, avevano problemi a trovare uno sponsor e a trovarsi le divise per potersi vestire, quando l'ultima delle associazioni sportive calcistiche ai Pulcini, che sono i ragazzini dell'età di tuo figlio, il più grande, che sono tutti vestiti di tutto punto con tanto di sponsor, capito? Sì, infatti è una vergogna, cioè, è quello, cioè, alla fine il calcio, cioè io non mi dimentico mai quello che è successo 3-4 anni fa, come l'hanno chiamato, spalmare i debiti, qualcosa del genere. Minchia, che tu paghi i giocatori non so quanti milioni di euro e poi minchia mi fai anche un decreto spalma i debiti, qualcosa, minchia, per spalmare i debiti di questi bastardi, ma andate a vi faccio fallire tutti quanti, l'altra azienda l'avrebbero già fatta fallire 100 volte. Dalla serie più bassa, che è la prima categoria, alla serie più alta, che è la serie A, hanno tutti lo stesso atteggiamento, dai riutti, non deve riuscire, siamo davvero, come si dice, soldati in libera uscita, i riutti erano stati più, e triste. Mi sto addormentando, gli altri in culo, gli amore in culo, 7351, due reti per me. Che me ne vado a letto, devo fare stasera a letto. Vado, come al solito devo estordire davanti alla televisione, il problema è che si è rotto del tutto la televisione, che è un casino, non so come dormire, come addormentarmi, come faccio. Perché non la sai distrarre? Mentre distrarre, amici, lascia perdere, di cui plasma ultima generazione. Vabbè. Ma ci sentiamo domani, se ti va organizziamo in questi giorni questo pranzo, questa cena, vediamo un attimo da fare. Ehi, va bene, dai, buonanotte. Ciao, buonanotte, ciao.